Diamo il benvenuto a Francesco Tricarico, che è in treno ma al contempo è al telefono con noi. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a voi. Ciao. Desenzano. Ah, sei a Desenzano, ok. Desenzano. In viaggio. Chissà se è zona di gallerie Desenzano. Non dovrebbe, dai. No, sul lago, Desenzano del Garbo. Non lo so. Magari manca il campo, però gallerie no. Non quando cade la linea, poi lo scopriamo. Comunque, dove vai di bello? Dai, era la prima domanda che torno ci viene. Torno a Milano, ero andato a Verona, alla Padova, alla Fiera delle Parole. Ok. Molto bello. Bella, tu Giulia conosci la Fiera delle Parole? No. Non la conoscevo. Siamo ignoranti. Sì. Allora, c'era Vecchioni anche, poi c'è stata una bella serata. C'era Dacia Maraini ieri. Una fiera molto importante per la letteratura. 70.000 visitatori, mi dicevano. Organizzata bene, molto interessante. Che gran figata, una cosa veramente bella. Immagino che ti sei divertito, immagino che è stata una serata molto molto pregna e anche divertente. Sì, molto bello, bella fase, bella atmosfera, bella organizzata bene, energia, voglia di fare, di parole, poi per noi ci sono le parole, io ti trovi a tuo agio, ti trovi bene, sì, ci sono le parole. State bene le parole, sto bene. Senti, partiamo proprio dalle parole, dalle parole che usi alla fine di Generazione, il pezzo che abbiamo ascoltato qualche minuto fa. Dice Generazione che ha fallito. E quale generazione ha fallito? La tua, la nostra, tutte? Tutte le generazioni falliranno agli occhi delle nuove e forse delle vecchie. Perfettamente è d'accordo. È abbastanza fisiologico, che per quanto di bene possano aver fatto. La mia, diciamo che la mia forse ha vissuto negli anni 70, siamo trovati in un momento molto difficile. Ahia, ecco. Potevano esserci grandi cambiamenti, che poi si sono andati un po' a spegnere. No? Ok. In malo modo. Tutti questi in malo modo. Francesco, eccoci, ciao. Francesco. Siamo già in onda, siamo andati dritti a cannone in onda. Niente, ti volevamo chiedere. Non mi ricordo, Gardini, cosa volevamo chiedere a Francesco, mi ho scordato. Stavamo parlando di generazione, delle generazioni che si susseguono, è fisiologico che tutte le generazioni falliranno agli occhi di quelle prima, di quelle era dopo. Una provocazione soprattutto, però comunque per dire che le generazioni di solito falliscono sempre agli occhi delle altre, e che ciò che va avanti comunque sono le persone, le idee possono essere La generalizzare non va mai bene, in sintesi. Senti, il progetto in uscita nel 2019? Il tuo progetto nel in uscita? Nel 2019 uscirà un disco. Ok. Che a cui stiamo lavorando, adesso uscirà nel mese prossimo un altro singolo, magari più tardi, però uscirà un altro singolo e poi a marzo uscirà un disco. Ok. Che mi auguro ricco e piacevole, che possa piacere. Quindi poi noi ci risentiamo con calma a marzo per l'uscita del disco. Bene. E ci risentiamo quando tu non sei in treno la prossima volta. Magari. Così riusciamo. No, ma figurati, va là. Se tu eri in treno, potevamo anche chiederti di scendere a Desenzano del Garda, parlare con noi e poi prendere il treno successivo. Aspettare quello dopo. Ecco, però non mi sembrava il caso di chiederti una cosa del genere, Francesco. Che ne dici? Se l'avessi chiesto, sarei sceso. Guarda, mannaggia, per solo occasione. T'avremmo anche pagato il biglietto, guarda, per il prossimo treno. Ascolta, Francesco, grazie, t'abbracciamo. E ci risentiamo nel 2019. Allora, buon lavoro. Buon lavoro a voi e a tutti quelli che ascoltano.